scappata, ora più che mai sono assetata. Visto drink io vado matta, agro dolce denso opaco caldo schizzi lui nel tuo cazzo è. Fallo uscire baby, guardami, le mie labbra da pompino lo cercano. Baby dammi il tuo spermino, nel congelatore dentro coppettine lui è il mio ice cream baby. Spermanizer, spermanizer, Mrs. Spermanizer, io spermanizer, io Mrs. Spermanizer, baby, miss you you are, miss you you are. Spermanizer, spermanizer, spermanizer. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma caldo, sarò la tua mi spermanizer. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Impazzirai col mio ingoio, sono io mi spermanizer. Un radar oh che mi segnala se c'è sperma per schizzare. Da qualche bel cazzone arriverò con la mia bocca e tutto quanto io lo berrò. Lo berrò baby. Chupa chups al gusto di sborracchia venderò. Porta porta casa a casa, confezione da tre pacchi o maxi scorta per famiglia ti venderò. Venderò baby. Spermanizer, spermanizer, Miss Spermanizer, io spermanizer, io Miss Spermanizer, baby, Miss you you are, Miss you you are. Spermanizer, spermanizer, spermanizer. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma caldo, sarò la tua mi spermanizer. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Impazzirai col mio ingoio, sono io mi spermanizer. Tutti mi chiamano mi spermanizer, spermanizer, spermanizer, yeah. Senza lo sperma io sto male, quindi porta il tuo cazzo qui. Spermanizer, spermanizer, Miss Spermanizer, io spermanizer, io Miss Spermanizer, baby, Miss you you are, Miss you you are. Spermanizer, spermanizer, spermanizer. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma caldo, sarò la tua mi spermanizer. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Impazzirai col mio ingoio, sono io mi spermanizer. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spruzzami lo sperma, ah, mi piace tanto ingoiare. Spermanizer, spermanizer, Miss Spermanizer, io spermanizer, io Miss Spermanizer, baby.